El año pasado, él se adelantó a los hechos. Él es un hombre de una gran sensibilidad. Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Ah, che, con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi e reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una bici che faceva pena, che faceva però sempre un giro. Ho visto uomini cantare tutti in coro e poi ce n'era uno se ne stava lì da solo che faceva sempre. Un pescatore, un capitano, un benzinaio, un papa. L'amore con la figlia del dottore. Come va? Il dottore si è svegliato allora, scappa. Come va? Mentre tutti già correvano sul viale del tramonto, uno si è fermato ed ha proposto questo. Ragazzi, è inutile scappare, io propongo di cantare tutti insieme. Come va? Come questo. Che dice come va? 15 ore, 5 minuti. Ahí tenemos en la cortina Alex Britti, che già les había contato che salió secondo nel Festival di Sanremo. De este año, un orgullo para nosotros haberlo descubierto, mire la prepotencia. Dale, Bonelo, vamos. Les habla el blanco de las críticas. La esperanza blanca. Vamos, Pirulo, vamos. Hoy cumplimos 500 programas. ¡Qué grande! ¡Sí! Muy bien.